Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Nel mese di luglio, lo sapete, stiamo ripercorrendo assieme alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione e vi stiamo riproponendo una sorta del meglio di Nessuna è Perfetta. Come si vive in famiglia quando è lei a portare lo stipendio? Questa domenica, quanto più di femminile c'è rispetto al lavoro? Ci sono i dati Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, secondo i quali in circa 1 milione di case italiane è la donna la breadwinner, quella che porta a casa il pane, quella che guadagna. Perché succede questo? In alcuni casi certamente perché il marito è pensionato, ma spesso la novità è che le donne sono rimaste le uniche a tenersi il lavoro, mentre invece gli uomini l'hanno perso. I casi in cui lui è disoccupato e lei è l'unica fonte di reddito sono in crescita. 970 famiglie, insomma, con o senza figli. Ed è di questo che vogliamo parlare in questa domenica. Come si vive con un marito che si sente magari un po' ai margini della vita lavorativa? Ci sono casi in cui lui aiuta, diventa il casalingo della famiglia, e ci sono casi in cui invece la vive male. Sono tutti casi assolutamente contemplati dalla nostra realtà. Cercheremo di capire come mai c'è questo dato così eclatante, ma intanto cercheremo di capire cosa ne pensa il nostro agente provocatore di questa domenica. Benvenuto a Nessuna è Perfetta, un esperto particolarissimo, un uomo che porta in scena tutte le sere a teatro "Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere", prossima data a Chiavari il 18 maggio. Allora, buona domenica Paolo Migone. E buona domenica a voi. Ormai più che un comico, lei è un esperto di relazioni tra uomini e donne. La trasposizione a teatro del saggio dello psicologo americano John Gray, che è un bestseller, l'ho letto anch'io con molto gusto, devo dire, divertendomi. La prima cosa che mi verrebbe da chiedere è: come reagisce il pubblico quando un comico racconta le micro e macro diversità di questi due pianeti, Marte e Venere? Ma della coppia la donna ha letto il libro, l'uomo no. La donna trascina l'uomo a teatro perché l'uomo non ha voglia, e poi alla fine si divertono tutte e due, ma le risate più forti le fa la donna. Ormai. Quindi diciamo uno spettatore passivo, quello che viene, il maschio che viene. Chiamiamolo un trascinato, vero? Ma ormai per esperienza, il maschio che viene lì a teatro a sentire Paolo Migone che gli racconta che gli uomini vengono da Marte, le sa già certe cose che gli vengono prospettate in maniera, come dire, divertente? Per esempio, prendiamo un classico dei difetti che Paolo Migone ripropone sul palco. Qual è quello che fa più sorridere e ridere gli spettatori? Dell'uomo il fatto che è di una pigrizia infinita e non si sa mai quello che vuole, insomma, è un rinunciatario tremendo, quello sì. Tipo, per esempio, l'iniziativa. Raccontiamo per far capire come funziona, diciamo, sul palco questa identificazione. Se puoi farci un piccolo saggio. Che la donna manda un comando al proprio uomo: metti un po' d'acqua sul fuoco, che è molto semplice, e l'uomo sta girando per la casa con movimento cerebrale a zero, sospinto dalle correnti d'aria, non sa nemmeno chi è, e quindi quel comando lì vocale gli arriva all'orecchio, praticamente un e quindi deve decifrare questo fonema come se fosse un animaletto, una bestia. Quindi gioco tanto su la vispaggine, la razionalità della donna e i riflessi più lenti dell'uomo, eh? Chiamiamolo lasciandarismo dell'uomo in casa, che poi la domenica mattina è ancora più diciamo enfatizzata questa cosa, no? La donna invece gli accende l'aspirapolvere, lo sveglia perché deve pulire sempre pulire. E poi gli fa 300 programmi per la giornata di domenica. Allora andiamo lì, facciamo questo, poi andiamo a quest'altra parte. Mentre lui invece non vorrebbe fare niente, vorrebbe veramente staccare tutto e mangiare e dormire, e piccola passeggiatina. Invece gli tocca andare dalla suocera e fare qui la passeggiatina, i negozi e la gita, il cane. Passeggiare il cane se non si ammala, sì, sono mille attività che non vorrebbe fare. Come funziona secondo te la coppia quando è lei che non soltanto per l'energia, ma anche perché porta a casa uno stipendio, diventa di fatto la leader della coppia? In questo caso i maschi come reagiscono? Ma io nella mia città, che è Livorno, non ne conosco di questi casi. O lavora lui o lavora tutti e due. Penso che sia abbastanza frustrante per l'uomo, perché insomma da millenni andava nella boscaglia e portava il coniglio, quindi è una cosa che vive secondo me con grande frustrazione. Bisogna vedere un po', sai, l'intelligenza dei due individui. Certo. Se c'è rispetto e armonia, magari è anche una cosa temporanea. Me c'è questa attrazione sessuale che è la prima, diciamo, primo motivo di stare insieme, e poi bisogna cercare di combinare tutto il resto, incastrare tutto il resto, che poi alla fine ti accorgi che non funziona, perché siamo così diversi che sono tentativi, il fatto di non entrare in contrasto, no? Facciamo finta di niente, camminiamoci sopra, facciamo finta di niente, alla lunga porta dei disastri. Senti, ma qual è la cosa più divertente che ti capita di raccontare sul palco a proposito dell'uomo che arriva da Marte e dalla donna che arriva da Venere? Per esempio, io sono 24 anni che vedo mia moglie in qualsiasi stagione, che appena si alza apre tutte le finestre. E io sono 24 anni che la seguo come un'ombra e le richiudo, e questo è veramente grottesco. Cioè, io mi immagino la lapide di marmo, io e lei accanto con le foto, i fiori veri suoi, i fiori finti a me, la foto più grande a lei, la foto più piccola a me, in bianco e nero, e lei che alle 7 del mattino apre la lapide, l'alza con una finestra, e io che poi la chiudo. Prende aria anche la bara. E su questa immagine, che però credo sarà condivisa in senso opposto da tante coppie che ci ascoltano, perché per esempio nel mio caso mio marito apre sempre le finestre e io lo inseguo, ma non come un'ombra, come una presenza molto demoniaca, molto visiva, e le chiudo. E l'argomento è: entrano i moscerini, dico io, anche a gennaio. E lui dice: ma quali moscerini, che siamo a gennaio? Ma per me entrano comunque. Grazie. Sono quei meccanismi che alla lunga è come una goccia, piano piano ti esasperano, no? Sì, ma la chiusa finale degli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, no? Nello spettacolo, qual è? È di cercare degli interessi fuori, di non vedersi troppo, cercare di centellinearsi, non, quelli che fanno tutto insieme secondo me sono condannati alla separazione, perché poi non hanno niente da raccontarsi. Questo è un messaggio assolutamente vero, se no Marte e Venere non comunicano. No, no. E poi di tenere molto vivo la sessualità, avere fantasia, depistare l'altro, stupirlo, Non rende una cosa meccanica e ripetitiva. Vogliamo dire che nel tuo spettacolo c'è un capitolo dedicato al sesso? Alla fine, che dove appunto dico è un fuoco, va tenuto acceso e la fiamma deve essere molto alta, la fiamma bassa si spegne. Bene, è domenica e Paolo Migone allora vi consiglia di accendere i fornelli. Grazie tutti, grazie, a Chiavari il 18 maggio a vedere lo spettacolo Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Buona domenica Paolo Migone. Un abbraccio a tutti. Grazie. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino no. Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Ogni domenica alle 12 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Nel mese di luglio, lo sapete, stiamo ripercorrendo assieme alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione e vi stiamo riproponendo una sorta del meglio di Nessuna è perfetta. Buon ascolto. Sarà questa domenica. Questa domenica la nostra Sunday Girl è una scrittrice che torna con un romanzo che nel titolo c'è particolarmente caro, perché sapete che, essendo noi una trasmissione che si chiama Nessuna è perfetta, tutti i richiami a perfezione e imperfezione ci sono vicini. Allora, buona domenica, benvenuta Silvia Vallone. Grazie, buona domenica a voi. E dopo il grande successo del suo primo libro, Acciaio, poi Marina Bellezza, torna con un nuovo romanzo che si chiama Da dove la vita è perfetta, pubblicato da Rizzoli. Da dove la vita è perfetta, storia di amore ed abbandono di genitori visti dai figli, è un tema ricorrente. Nella nostra domenica, nelle nostre chiacchiere domenicali, di solito parliamo di donne e lavoro, no? Ma la vita è fatta anche di rapporti, e i rapporti genitori e figli contano tantissimo, lo sappiamo. Quanto la vita può essere imperfetta? Perché il rapporto con un genitore parte col piede sbagliato, perché tante cose non si sanno, perché essere genitori è un mestiere difficilissimo e nessuno ce lo insegna prima che si diventi genitore. Direi che la vita è strutturalmente imperfetta. Viviamo in un'epoca in cui ci dicono tutti che dobbiamo essere vincenti, dobbiamo essere sempre appunto perfetti, ma questo è impossibile, e non solo, è una bugia che secondo me è anche dannosa, perché in realtà i luoghi imperfetti, tutte le imperfezioni che formano la nostra identità, poi sono i motori dei nostri desideri, i motori del nostro coraggio. E infatti il titolo a cui ti riferivi appunto parla proprio di questi luoghi dove uno si siede, panchine, balconi, dove uno si affaccia, finestre, e desidera e vede, intravede o immagina i luoghi della perfezione, che per fortuna sono sempre un po' più in là di dove stiamo, però questo è un libro anzitutto sull'imperfezione dei figli e dei genitori, perché è la storia di due ragazzi, di Adele, una ragazzina che non si aspetta nulla dalla vita, e di Manuel, che vuole raggiungere a tutti i costi la felicità. E con i loro occhi, che si guardano i genitori, ovviamente imperfetti, perché siamo tutti genitori imperfetti, ma anche figli imperfetti. Beh sì, da una parte è la storia anzitutto di Adele Emanuel e di Zeno, di adolescenti appunto che sono figli arrabbiati. Io amo molto raccontare i figli arrabbiati che sfidano i genitori, però in questo romanzo Adele rimane incinta contro ogni possibilità di fatto, perché è una ragazzina fragile, viene da una storia molto, molto difficile, quindi non ha nessuna carta per diventare genitore, anche lei lo capisce, eppure vive questa gravidanza. Già immaginando un po' la bambina che porta in grembo, immaginandola felice, e poi dall'altra parte però c'è anche una coppia, un'altra coppia più adulta che invece desidera con tutta se stessa un figlio e non riesce ad averlo. Quindi il desiderio di diventare genitori o il diventarlo senza aver capito cosa c'è in gioco, per me era un modo, ecco, di interrogarmi su cosa significa poi diventarlo davvero, cos'è un genitore, cos'è una famiglia. È una bellissima domanda, credo che tanti di noi se la siano posta o se la pongano ancora tutti i giorni. Nella nostra, diciamo, ricerca, no, di rassicurarci, non si può essere perfetti, lo diciamo, il titolo è Nessuno è perfetto, è inutile aspirare alla perfezione, va bene aspirare a fare bene le cose che si fanno, però ci sono ogni tanto dei momenti perfetti nella vita. Qual è stato il suo? Il mio momento perfetto, ne ho vissuti alcuni, che però sono sempre stati, qui ci tengo a dirlo, il frutto di un percorso, il frutto di una fatica. I momenti perfetti sono, per esempio, quando finalmente, dopo anni di lavoro su una storia, dopo migliaia di pagine scritte a vuoto, finalmente, no, accade che inizi davvero la storia giusta. E questo è un momento perfetto di grazia che però deriva invece da anni di fatica, perché sì, per me la perfezione è sempre figlia dell'imperfezione. E quindi è sempre figlia di un lavoro duro, non è mai una cosa che tac, arriva così in attesa, è una cosa richiesta. Assolutamente, questo anche per esempio il motivo per cui oggi si dà molto l'idea che la fortuna, il futuro, le vittorie, il lavoro, la carriera siano frutto del colpo gobbo, del colpo fortunato. Invece per me il riscatto di una vita, il progetto, il sogno realizzato invece viene sempre dalla scuola, dallo studio, dall'università. So che fino a qualche anno fa le sue notti erano notti lunghe, perché tirava l'alba a leggere, soprattutto a scrivere. Poi è arrivata l'altra faccia della vita, cioè è diventata mamma anche lei. E com'è cambiata? Beh, devo dire che appunto anche nel mio caso il lavoro in realtà ha beneficiato tantissimo della nascita di un figlio. Purtroppo lo sappiamo tutte che il mondo del lavoro crea grandissimi problemi alla maternità, ancora non accoglie, non accetta che una donna possa essere lavoratrice e madre. In realtà per me l'arrivo di mia figlia ha comportato tantissima concentrazione, tantissima energia in più, tantissima creatività, quindi ha dato alla mia scrittura. Naturalmente ho avuto meno tempo, però il tempo che ho avuto era un tempo assolutamente più vivo e più concentrato. Assolutamente perché, sì. Perché temo, cara Silvia Vallone, che anche lei si è entrata nella spirale del multitasking, faccio tutto e lo faccio bene. Noi ci battiamo ogni domenica contro il falso mito e la fregatura immane che ha colpito negli ultimi 10-15 anni, soprattutto le donne che sono state convinte che devono fare tutto, devono farlo bene, ma devono fare tante cose. Si fanno delle scelte, no? È chiaro che non si può fare tutto, non si può fare bene. Però la sfida di tenere insieme la famiglia e il lavoro è una sfida importantissima, secondo me. E ci si può fare. Ci si può fare, ed è anche però giusto lottare, perché insomma bisogna anche aiutare ogni donna, venirle un minimo incontro, perché ripeto, il fatto che la nascita di un figlio non è un meno per il lavoro, è semplicemente che bisogna riorganizzarsi. E soprattutto i figli, almeno per ora, almeno per ora si fanno in due, e quindi sono carichi quelli, come dire, i carichi domestici poi si dividono. Questo è un altro aspetto su cui non bisogna mai stancarsi di essere noiosi, ma ripetersi, perché il contributo maschile in Italia alla condivisione dei lavori domestici e della genitorialità, termine orrendo che io detesto, però insomma per capirci, è molto basso, più basso che in altri paesi. Sono assolutamente d'accordo, aggiungo che penso, anche sono convinta che gli uomini stessi, vivendo la paternità a pieno, cioè occupandosi della cura, la cura fisica, la tenerezza, tutti quegli aspetti che hanno a che fare proprio con l'accogliere un bambino nella sua corporeità, possono solo dare agli uomini, tirare fuori tutta quell'altra parte che invece viene soffocata da una cultura che è ancora troppo maschilista, che è ancora troppo violenta, che fa danni agli uomini stessi oltre che alle famiglie. Alle Comunque, donne. Per tornare alla concretezza, lei le poppate, le notti in bianco, eccetera, le ha divise col padre di sua figlia, sì o no? Tutto tranne l'allattamento l'ho diviso, se no non avrei scritto questo libro. Bene, brava Silvia Vallone, grazie. Vi ricordo che il libro ha un titolo che ci è molto caro, lo capirete perché, Da dove la vita è perfetta, edizioni Rizzoli, e grazie a Silvia Vallone, buona domenica. Grazie a voi, grazie. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento, sono Dylan Dog. Quel di Landog. L'alba dei morti viventi, il lungo addio, Ucronia, dopo un lungo silenzio e tanti altri episodi. Quest'estate, Dylan Dog ritorna su Radio 24 e con lui Grucio, le sue donne e i suoi nemici. Ci ritroveremo, Dylan Dog. Ci ritroveremo. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni domenica alle 20:10 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati in questa speciale puntata di Nessuna è perfetta. Stiamo riascoltando la puntata dedicata alle donne che portano a casa lo stipendio mentre lui non ce l'ha per tante ragioni, oppure ce l'ha perché è pensionato ma a lavorare è lei. Buon ascolto. Continuiamo a parlare di donne capofamiglia e lo facciamo con due esperti molto interessanti da ascoltare. Una è Linda Laura Sabbadini, una ospite frequente di Nessuna è perfetta, statistica sociale, editorialista della Stampa. Buona domenica, Linda. Buona domenica a tutti. E l'altro è Walter Ruffinoni, che è amministratore delegato di NTT Data Italia, azienda giapponese che è leader nel settore dell'information technology. Perché dico molto interessante avere il punto di vista di un'azienda giapponese? Perché il Giappone sta facendo uno sforzo notevole e totalmente nuovo per la loro cultura per portare al lavoro una grande fetta di popolazione, quella femminile, finora pochissimo utilizzato, ma sarà proprio Ruffinoni a spiegarci perché lo stanno facendo e con che metodo. Io intanto vorrei partire da Linda Laura Sabbadini. Abbiamo citato in lungo e in largo la cifra che l'Istat ha fornito: 970.000 famiglie hanno le donne a capo come breadwinner, come quelle che portano lo stipendio a casa. È una cifra come dire, valida per difetto, certo non per eccesso. Allora, intanto va detto che le donne che sono a capo di una famiglia sono tantissime. Lì è un caso, diciamo, molto particolare, perché proprio l'Istat ci dice che in generale sono 8 milioni e mezzo circa. Le donne che portano a casa uno stipendio, 8 milioni e non 870 mila. No, 8 milioni e mezzo sono quelle o single, quindi che ovviamente guadagnano per se stesse, oppure sono madri sole, cioè sono quelle che mantengono i loro figli, sono circa più di 650 mila con figli minori e altrettante con figli invece un po' più grandi. e anche madrisole anziane ci sono, no? Ma, sono Linda, Linda, ma 8 milioni è un esercito, eh? Cioè 8 milioni, sono 8 milioni donne. Di donne che guidano famiglie, anche single sono famiglie, no? Certo. Che guidano famiglie con il proprio reddito, oppure a queste ci si aggiungono anche circa 990.000 coppie in cui sono loro a guadagnare, cioè a contribuire con il 60% più del reddito. Cioè guadagnano più dei loro compagni. Esatto, quindi che guadagnano più dei loro compagni. Tra l'altro questa, diciamo, quota che è di circa 1 milione di donne, di coppie, è in crescita, è stata in crescita soprattutto nel periodo di crisi, se lo si confronta col dato immediatamente precedente alla crisi intorno al 2005-2006. Quindi quello che è interessante però da dire è che rispetto a queste donne che vivono all'interno delle coppie e guadagnano di più del proprio partner, gran parte di queste sono di status sociale basso, non di status sociale alto, cioè sono circa la metà nel sud d'Italia e sono praticamente il risultato del fatto che a fronte della perdita del lavoro del proprio compagno all'interno del mercato del lavoro in un momento di crisi anche accentuata, soprattutto nel sud, c'è stata una riattivazione delle donne di status sociale basso per poter mandare avanti la famiglia. Quindi magari fanno le collaboratrici familiari a ore, vanno a lavorare nei campi, fanno tutta una serie di cose che prima non avrebbero fatto, perché tra l'altro le donne sono anche molto flessibili, si adattano a lavori che magari un uomo non farebbe. Non c'è dubbio. Quello che però va detto è che accanto a queste ci sono anche molte madri sole. Qui la situazione è particolarmente critica. Ne parliamo tra un minuto. Sì, io okay. Adesso vorrei andare da Walter Ruffinoni, che ci aiuti a capire. Il Giappone è stato per decenni, dal dopoguerra a oggi praticamente, rocciosamente convinto sostenitore delle proprie tradizioni, quindi una rigida separazione. L'uomo lavorava quantità di ore inverosimili, praticamente la famiglia lo vedeva a notte fonda, e le donne si occupavano appunto della cura della casa e dei figli. Tutto ciò ha determinato però anche, oltre che una deprivazione del talento femminile, anche dei problemi in ordine alla quantità di lavoratori. Per cui il Giappone ha fatto una scelta. Finalmente ha detto cerchiamo di portare nel mondo del lavoro le donne che per ora non erano state calcolate. È verissimo, innanzitutto buona domenica a tutti i radioascoltatori. È così vero quello che stava dicendo, che il primo ministro Abe ha lanciato nel 2013 questo programma chiamato Womenomics, in cui ha fissato l'obiettivo di avere il 30% delle posizioni di vertice delle aziende giapponesi entro il 2020. Il 2020 è un anno magico per il Giappone, perché ci saranno anche le Olimpiadi, e quindi ha fissato questo obiettivo ambizioso che già raccoglie dei frutti, perché nel 2014 è avvenuto lo storico sorpasso del tasso di occupazione delle donne giapponesi rispetto alle donne americane. Quindi oggi il Giappone ha un tasso di occupazione femminile intorno al 63%, quindi si sono fatti passi da gigante rispetto allo scenario che correttamente lei ricordava. Oggi il Giappone ha una criticità sul vertice aziendale, quindi come presenza femminile, perché la presenza nei board, per esempio, è del 3%, e meno del 10% delle aziende giapponesi ha come chief executive o amministratore delegato una donna. Il soffitto di cristallo, insomma, non è stato ancora scalfito, ma quello che mi interessa dal punto di vista di giornalista italiana, sì, è capire come sono riusciti a diciamo estrarre da casa le donne giapponesi, perché il problema è che comunque le famiglie hanno bisogno di cura. C'è stato un investimento forte sull'asilo nido, le scuole al pomeriggio. Che cosa è stato fatto per aiutare la forza lavoro femminile a mantenere il lavoro dopo la nascita del primo o del secondo figlio? Perché per esempio in Italia le donne anche qualificate, spesso anche laureate, al secondo figlio mollano perché non riescono a gestire tutto. Verissimo. Ma alla fine c'è stato senz'altro un grande cambio culturale, dovuto anche a una, se vogliamo, a una mancanza di skill professionali prettamente anche di stampo tecnologico, quindi quello che stiamo un po' vivendo noi, e poi lo commenterò, il Giappone l'ha vissuto prima di noi, e in più è arrivato anche in Giappone il riconoscimento che la diversità di genere, di cultura, in questo caso di genere, rappresentava per le aziende giapponesi un'opportunità da non perdere, no? Quindi l'esplosione della tecnologia, l'education che ha cambiato comunque un approccio, dando, diciamo, svangando un limite culturale proprio della donna casalinga, la donna per seguire il futuro della famiglia, ma rimanendo invece, entrando in un concetto di abbiamo un pool, quindi dei talenti inespressi, e in un momento di carenza di risorse, specialmente in campo tecnologico, ha dato quella che era la spinta. E poi quelle che potremmo definirle anche le distorsioni temporanee, quindi l'obiettivo di Abe va in questa direzione, quindi dire o un problema latente, in questo caso il vertice aziendale, bene, lancio un obiettivo di paese per riuscire a indirizzarlo. E lei dice che ci stanno riuscendo. Linda Laura Sabbadini, è impressionante vedere un paese che si dà un obiettivo e che come dire, misura i risultati da qui al 2020. Noi facciamo molti convegni da circa 30 anni, ma questo sistema di darsi un obiettivo, di misurare come si sta raggiungendo, fatichiamo un po' ad applicarlo a noi. Sabbadini, da noi la cifra qual è? Ricordiamolo, mi pare che sia... Da noi purtroppo non si arriva al 50% di tasso d'occupazione femminile. Stavamo parlando prima delle capofamiglia con figli e praticamente madri singole. Queste capofamiglia, tra l'altro, come ce la fanno a gestire una responsabilità che non prevede condivisioni? Qui è un problema serio da un punto di vista del reddito. Le madri sole un po' in tutti i paesi, e sicuramente anche in Giappone, questo in generale, in tutta l'Europa, sono un segmento proprio di donne particolarmente esposte al rischio di povertà. Perché tenete conto che, per esempio, nel caso delle madri sole con minori, un terzo vive solo dell'assegno che viene passato dall'ex marito. Quindi questo, cioè, non è già hanno lavoro? Di per sé. Com'è? Non hanno lavoro? Non hanno lavoro, non hanno lavoro. Un terzo non hanno il lavoro. E uno dei motivi per cui poi c'è stato un peggioramento per le madri sole è proprio anche questo, cioè che hanno una fragilità maggiore, una vulnerabilità maggiore che si è accentuata ovviamente nel periodo di crisi. E infatti, se si analizza l'andamento dei redditi femminili, mentre per varie tipologie di donne i redditi sono migliorati, per le madri sole c'è stata una netta diminuzione. Certo. E il reddito però di queste madri sole, siccome esistono anche i padri soli, anche se sono molti di meno, perché le madri sole con figli minori sono circa 650.000, i padri soli sono 100.000, però il reddito delle madri sole è i due terzi del reddito dei padri soli. Walter Ruffinoni, nella sua azienda e in generale nelle aziende giapponesi, che cosa state pensando per diciamo alleggerire il peso della vita familiare, che non è fatta per una donna solo di lavoro, ma è fatta anche di cura dei figli, cura della casa? Avete dei sistemi, che ne so, di asilo nido aziendali o delle misure che prevedono il part-time in alcuni giorni della settimana, il lavoro da casa? Come funziona in Giappone l'aiuto alle donne che lavorano? Guardi, le dico quello che facciamo qui da noi in Italia, ed è comunque abbiamo lanciato proprio nell'anno dedicato alla donna, 2016, proprio la possibilità di avere quello che viene comunemente definito smart working, quindi la possibilità di avere delle giornate in cui, che questo vale sia per le donne che per gli uomini, la possibilità di poter lavorare non venendo in ufficio, e quindi dando tutte le possibilità di organizzarsi e di lavorare più per obiettivo a prescindere dalla presenza fisica in ufficio, e quindi dare questa libertà. Ho una domanda per tutte e due, in chiusura, la risposta deve essere necessariamente telegrafica. Si dice sempre Italia e Giappone sono caratterizzati dagli stessi problemi, una popolazione molto anziana e diciamo la quasi assoluta certezza che in un futuro molto vicino nessuno pagherà le pensioni perché non ci saranno giovani in grado di farlo. Da noi in Italia si dice ci penseranno gli immigrati. In Giappone di immigrazione non si parla, Ruffinoni? Pochissimo, si inizia, infatti penso che proprio all'inizio dello scorso anno sono state alzate decisamente le soglie, quindi è un problema che sta avanzando in maniera molto molto veloce. Essendo un'isola, chi immigra in Giappone? Da dove arrivano gli immigrati? Principalmente dagli altri paesi dell'Asia. Quindi Filippine, sì. Paesi che stanno intorno proprio geograficamente e prossimi al Giappone. Lina Laura Sabbadini, da Statistica, le pensioni donne e uomini, chi le pagherà se le donne continuano a fare pochi figli in Italia e in Giappone? Bisogna investire nel sociale, c'è poco da fare, non è che neanche gli immigrati sono una panacea in questo senso. Che significa investire nel sociale? E tu dici gli immigrati non sono una panacea perché pure loro poi invecchiano e pure loro poi tendenzialmente fanno pochi figli alla fine, dopo un po', certo, che stanno in un paese. Gli immigrati nel breve periodo danno un supporto importante, adesso rappresentano il 20% delle nascite. Va bene, quindi sicuramente questo è un aspetto che allevia il problema, ma il problema vero deve essere risolto mettendo in condizione uomini e donne di avere i figli che desiderano, perché c'è uno scarto enorme tra il numero di figli che le persone desiderano e la realtà, quelli che riescono ad avere, perché in Italia è difficile avere figli. Non ci sono servizi sociali, non c'è un sostegno economico adeguato, la rigidità dei posti di lavoro è enorme, la rigidità anche nella divisione dei ruoli, anche se qualcosa si sta muovendo. Se non si investe in politiche sociali una volta per tutte, nel nostro paese non si è mai fatto infatti seriamente, questo problema non si lo risolveremo. Si riproporrà, perché comunque tra 30 anni avremo la seconda generazione, la terza generazione di immigrati che, come gli italiani, faranno pochi figli e invecchieranno, e quindi non è la soluzione di tutti i problemi, insomma. Io ringrazio Linda Laura Sabbadini. Ruffinoni, facciamo un viaggio di studio per i politici italiani, per che tornino dandosi dei tempi certi come hanno fatto in Giappone? È un ottimo spunto. Bene, grazie e buona domenica a tutti e due. Buona domenica. Grazie. Buona domenica. Grazie. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Ben bentornati a Nessuna è Perfetta. Nel mese di luglio, lo sapete, stiamo ripercorrendo assieme alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione e vi stiamo riproponendo una sorta del meglio di Nessuna è Perfetta. Il momento, lo sapete, dello spazio che noi dedichiamo al problema posto da uno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici. Ve lo ricordo, potete scriverci a nessunaeperfetta@radio24.it, potete commentare con noi su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta e commentare con noi sulla pagina Facebook. La lettera di oggi arriva da Franca. Maria, ho 47 anni, due figlie adolescenti e da 23 lavoro come impiegata amministrativa in un'azienda farmaceutica. Mio marito era caporeparto in una industria tessile e in seguito alla crisi che ha coinvolto l'azienda presso cui lavorava ha perso il lavoro. Di fatto oggi sono l'unico sostegno economico della famiglia. La situazione che si è creata ha avuto un effetto negativo sul carattere di mio marito. È diventato taciturno, insofferente, nervoso, soprattutto nei miei confronti, come se volesse rimproverarmi qualcosa. Cosa posso fare per non compromettere la mia salute mentale e il matrimonio? Ecco, io credo che la situazione di Franca sia molto comune alle coppie nelle quali lei lavora e lui no, soprattutto se lui ha perso il lavoro non per scelta, non perché è un pensionato, ma perché è semplicemente vittima di una ristrutturazione che lascia a casa magari tanti colleghi come lui. E questo è il momento allora di chiedere alla nostra coach di questa domenica, Carla Ciani, le sue pillole per Franca. Buona domenica, Carla Ciani. Buona domenica a tutti. Allora, il caso è direi di scuola. Lei ha mantenuto il lavoro, lui l'ha perduto. Lui è irritabile, nervoso, si va in depressione spesso in questi casi. Franca ci chiede: come posso fare per non compromettere, oltre alla mia salute mentale, anche il matrimonio? Qual è la prima pillola che tu le suggerisci? La prima pillola serve ad assumere la consapevolezza innanzitutto che le reazioni alla perdita del lavoro sono diverse tra donna e uomo. Per la donna l'emozione prevalente è la paura, che è generata dall'insicurezza, per l'uomo è la collera, è la reazione collerica alla frustrazione e alla compromissione dell'autostima. E questa reazione ha a che fare con un modello culturale che vede il valore dell'uomo rapportato, come dire, alla sua capacità dominante di provvedere alla famiglia, e ancora oggi il retaggio culturale, il giudizio sociale verso l'uomo che non lavora è ancora molto forte. Quindi la prima pillola sarebbe comprarsi un manuale che spiega come si gestisce la collera, la frustrazione di un uomo che ha perso il lavoro? Gliene suggeriresti qualcuno? Io non sono proprio per i manuali in questi casi. Ma è forse quello che l'ascoltatrice deve fare è proprio comprendere che il nervosismo, l'insofferenza, l'introversione sono, come dire, adeguati. E non è cattivo lui, è che proprio cerca di uscire da una situazione così. È una reazione naturale alla perdita dell'autostima, a quello che il maschio, insomma, è stato chiamato ad essere, a rappresentare. Quello che invece dovrà curare, al di là dei manualetti, insomma, ma la regola è quella di non rafforzare in modo funzionale questi comportamenti. Quindi se lei si sente vittima oppure per affetto cerca di banalizzare, minimizzare quello che è accaduto, rischia che l'affetto passi per commiserazione e quindi generi ancora maggiore collera e l'autostima non si ricostruisce con l'affetto. Seconda pillola. E appunto in questo la stima, l'autostima si costruisce invece con azioni concrete, quindi con la seconda pillola dovrà elaborare un piano di azione comune, una vera gestione della crisi, come succede nelle aziende, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Per cui se lei gli dice, beh, visto che non lavori, fai la spesa, pulisci casa, bene, e vai a prendere i bambini all'asilo? Perché tu hai tempo, deve capire che questo porta l'uomo a identificarsi con un modello femminile che per lui è inaccettabile sotto il profilo della stima. In questo piano di azione invece deve piuttosto supportare il marito a incrementare il suo valore, spingendolo a utilizzare questo tempo invece per aggiornarsi, per magari assumere anche altre competenze, confrontarsi, entrare in qualche ambito associativo, coltivare relazioni, insomma mettere buone energie in un momento di cambiamento. Quindi Carla Ciani, l'errore sarebbe rinchiudere il partner, il marito che è senza lavoro in un ambito domestico, cercando di utilizzare al meglio, no, questo tempo per sollevarsi un po' dalla fatica. Sarebbe, come dire, anche giusto, molti lo fanno senza problemi, ma potrebbe essere invece un modo di peggiorare ulteriormente la fase di autostima in calo. Che autostima, certamente se l'uomo è invece abituato a condividere equamente i lavori domestici, questo insomma è un supporto naturale che non ha a che fare con l'autostima, ma questo aspetto, come dire, utilitaristico di noi donne, no? Visto che hai tempo, fai questo, deve essere rapportato al ruolo che invece il marito ha sempre mantenuto al particolare momento che uno, quindi spingerlo a iscriversi a un'associazione, a fare una vita di relazione, a migliorare magari le proprie competenze su cose nuove che potrebbero dargli opportunità di carriera, e non tenerlo chiuso in casa a fare la lavatrice. Ecco. Assolutamente, assolutamente. Terza pillola. La terza pillola è utilizzare questo momento per una condivisione profonda anche con i figli, partendo anche dalla paura che magari l'uomo può avere di perdere l'autorevolezza nei loro confronti, ma portando questa esperienza del padre come un'esperienza di valore e facendo capire che in un gruppo di persone che sono così legate in modo indissolubile dall'affetto ma anche da interessi diretti, ogni componente è chiamato a dare il proprio contributo. È un momento forte che serve per allenare i figli ad affrontare le difficoltà della vita. Oggi perdere il lavoro è una condizione purtroppo normale, no? E quindi questo momento dovrebbe trasferire anche ai figli la necessità di dotarsi di capacità di rimettersi in gioco, di aprirsi il cambiamento e di essere, il messaggio che deve passare è che il valore della squadra deve venire fuori. Grazie per aver seguito questa puntata speciale di Nessuno è Perfetta. A domenica prossima.